Aspetta, e allora domani non mi piccato lì, perché domani sono incasinato. Non lo possiamo fare un lunedì. Lunedì sono incasinato io, invece, da mattina a sera, non vedi cosa fare. Allora facciamo martedì. No, facciamo martedì. Va bene, domenica ne capo a parlare, no? Tu sei impegnato. Domenica non lo so, devo vedere. Devo vedere, allora ti faccio sapere, dai, se si può fare. Tanto, non penso che ci vorrà molto a fare. Dai, vabbè, che come minuti mi vuoi. Vabbè, dai, mi fai sapere allora. Andrà bene, Meda. Popolio, e allora? Ma Popolio già fa l'altro. Popolio già vede in la televisione, deve essere. Vedi, Antonè, che potessi in luce per le dolci. No, stavo guardando il pollo, cazzo. Me la volta così a meno. Stavo cucinando il pollo. È a posto, meno male, adesso è... L'ho spento e domani c'è un pranzo già pronto. Questa volta mangio la pinza. La pinta della Santa Maria. Il pollo, io il pollo lo faccio solo per i miei cucciucci. Capito? Semmai oggi si deve fare la farina che è più buona. Sai, mi sono truffato di caffè, non è che meglio che mi sei truffo. L'ho fatta ieri, mo basta. Allora non ne posso più. Bah. Quando cominciare l'anno, quando la mangi spesso ti stufa. Ecco, la fai? Vabbè, no, io non posso farne tanto. Allora non mi sento a fare, hai capito? No, adesso ho me la compresa già fatta, non la ci può dare, ecco, siamo corretti. Allora, ti fai, sì, noi sembra così, risparmiamo, sì. Se noi ci facciamo il calcolo, Tony. La farina, la fatica e il consumo di corrente, vada me la compro. Bravo, giusto, perché ci vuole un'oretta e io ho il forno elettrico, sono 2 kW laggiù preso. Tu dirai sì, 1 kW costa poco, però ci ho fatto. 2 kW adesso, 2 kW più là, insomma, la fai spesso in un mese, insomma, sono dei anni. Tipo io, ce la fai a gas, la matrici cosa, che tu pensi che non consuma. Allora io l'altro giorno ho fatto campagna, per dirti, un'ora e mezzo col forno a gas ci ha messo. Ma io l'intrico un'oretta, capito, a 200 gradi. Ma non pare mai la pastella, non le pare, ui. Non passa, si l'ha fatta, boh, è uscita buona. Basta. Ho ancora due pacchi, quasi tre pacchi ne ho messo, boh. Che la vuoi la regalo, che tanto non ne posso più, boh. No, io non è matto, Giuni. Ci può fare, ci vuole il forno, vuole un refrentariato dentro, capito? Con il mattone refrentario, a gas, solo così. E dopo non conviene neanche farle, secondo me. Andiamo a un pareggio. Sì, una prendiamo di crosso, sì, intanto. Natalie! Via! Andiamo voi, fai le cicci. No, la che mi bisi a me, poi mi ci mali, no, no, non vi guzzi. Perché non c'è? A chi non vi guzzi? Sotto mi sei bruciata e in mezzo era gruda. Dimmi tu, va, lo vorrà a caso. No, io l'ho fatta quella elettrica sotto e sopra e mi è uscita un po'. E a me invece mi è uscita male. Io l'ho fatta con quello elettrico, col grill, è uscita di luce, l'ho portata a 200 gradi e è uscita la grande, un'ora di cottura. È uscita perfetta, ma tutti per un conto, un'ora di forno elettrico più lo scaldabagno, quando arrivi la bolletta, da buio è un casino. 150 euro di luce. Sì, poi io uso il frenatore elettrico, consumo pure i kiwi, e poi devi far riposare 4 ore. Ma mi la posso, non ti preoccupare, ce me la mangio. Ma. Ah, non conviene, Tony. Quando mi sigli, ando del dire e me la compareggio. Con la cipolla come ti voglio e me la mangio. E non consumo una corrente né fatica. Bravo, Franco, così bisogna fare. Antonè, tu fai niente, ti ne mangi? No, tu se mi devi fare va così. Di noi attira, la cappellini, mangio la pizza io. Poi la faremo una scolata a digerirla. Capito? Non è basta una bottiglia di vino per poter digerire la fine. È buona, quello sì, un pezzo, un massimo due, dopodiché, boh, mi dà la nausea. Una pure di vino mia, compra! Faccio le pagliccio, ando da Budi, mi porto una cappata, da Budi, mi dico 4 bizzetti, e mangio 4 bizzetti. Capito? Prendo 4 pizze e va a Napoli. Va. E allora, quale datemi? E allora via, già so come mattessa, la croccatemi, però oggi a me non è facile. Farà il MD, una di che si boccacci, un etto di mortadella, cioè un etto, tre etti di mortadella, focacci. Pulsioso, te la metti? La boccaccia, che... cazzo di mortadellone, che è qua? Per quanto ne vuole, scusi, una, quanto me ne mette la focaccia, una fetta? No, ne metta 3 etti. Penso l'ho mangiata, Sì, ma se l'avrei dato, mi ha riccato 3 etti mortadella della focaccia, ma questo è pazzo. Ah, cosa ti credi che era un funendi? Torino. Tonino non è scherzo in quelle cose. Guardate quella, ma sicuro è? Sì, ti dimostra. Ma affitti, affitti. Oh, 2 volte l'abbiamo fatta, mi fa. Con la bocca c'è avuto 3 etti di mortadella. Siamo andati all'angolino di, come dire, 3M, uno come si chiama, MZ. Un angolino dietro, avevo tolto la polpa, e io ho visto un gustruzzo. Si è spaventata quella tizia, ah no, e poi chissà perché poi Franco allora di prato non va via a farmi. Io non le mangio di quelle cose, per carità, fanno male. No, io questa cazzo non cazzo, per me se mi viene ancora una focaccia per uno era video. E Gianni a caccia di usaggio si è mandati. Quando la mandano siamo filmati via le portatore, se siamo inviati tutti i bambini con la mortadella, saremmo fatto un profumo buono a gatto. Arriviamo in chivi, lanciamo i canni e dico, ah io ci mangiamo il panino, ma di tu Gianni, io ci mangiamo il panino, cazzo, ci mangiamo i cibanini, Tonino, cazzo, vedo un cane in chivi, vinta la rugana e fuggito, cazzo, non sappiamo la faccia andare, tra 2 fucche, attacchiamo, attrugia, tutti e 2, cazzo, guarda, Lugano non sappiamo la capacità. Penso un po', cazzo, il Lugano è fuggito, fai tu, magari dove da allora? Cazzo, pra, tutte e 2, mi... Chi doveva essere il conservante della mortadella? A chi vuole che ci vede un profumo imbittante? Ma deve essere più conservante per più ti vede chi si è fitto, cazzo. No, ma Lugano avrà vinto, tra io, a voi mai niente. E avrei detto, e scissi che mi innanzi, solo chi mi ci mangia pure a me. No, magari è giunta la pedestrina di tagliamo un pezzo. E invece, cazzo, l'attacca è matrugliato, se due, cazzo. Oi, oi. Mi fate un raccontare. Sì, già l'ha accennato una cosa del genere. Per carità, vabbè. Andrà bene, Meda. Comunque, che volevo dire, non me lo vedo più. Vabbè, che c'ha fare i cicci, non lavorisci ma. Ma come ti mai fai bocaietti oggi, o fra? Ah, boh, esatto. Proprio per Maniciù, o canale dei Mucci. E poi ci dici da Carino, canale dei Mucci, anche non per Maniciù. Cazzo, se non vuoi Maniciù, ma è tutto, ti dico che era canale di Rimucci. Ma cosa non vende nessuno, già la tagliate a Cursendi, ui. E ma paradiso, molti curarecci, curarecci virusi. Una volta. Orecchi di porco. Si può dire. Com'è questa radio, Franco? Va bene, così, sta arrivando bene qua. Ma c'è l'amplificazione a po'? Sì, c'è, 9.25 sì, qua da me. Oh, la radio mi interessava, fra. No, va bene. E se ho messo così invece, 1, 2, 3? Troppo malattolosa, è troppo forti. Allora va bene così, da. Lasciala così, ma la stai usando, lo sciure. Scappa. Ma non messo il microfono. Turbone sopra il gas di Saturnecco, quel microfono è una belva. Non ce n'è per nessuno. Lui ce l'aveva, ce l'ha venduto. Adesso c'ho questo qua, che è il gemello, più o meno, è piccolo però. Ah, vai, chi te l'aveva davvero? Quello che c'è di tu hai fatto una sbaglia a darlo. Vabbè, ma ci ho guadagnato per poter sodire, fra. Vabbè, ma se andava bene, me l'avrei finito. E poi era un periodo che non c'era quasi mai nessuno. Sì, ma Torino, poi vieni i pendini di Night, cose. Tanto, ma avevo portato una chiacchierata, andavo pure un baracchino normale, cosa di ne vai. Ma. Allora, io faccio quello per intregare, attacco questo e andato. Ma. Io ho visto che ha dato certi canali di propagazione a NASA in SSB, vedi. 23 canali io ho, il 23 della Sommercamp, modello, esce bene, esce, quei fatti puliti tra quello lì. Però è un bel vecchio, mi pare che per 1989. E anche perché tocca 5024, Maro, eh. 5024, ce n'era uno su Facebook, stava vendendo 80 euro, nuovo, ma farone. Sì, lo so. Una ragazza, sapete, non so se era parte di Roma di Maraggiolina, l'avevo contattata, poi è sparita, poi si è messa luce. Poi c'era un po' il vecchio Polmar 23 canali, quello metallizzato che è uguale a quello, tipo più o meno al Tokai. Quello 70 euro stavano dando. E ce n'è una marea, vai sul coso degli usati, non c'è più un bel. Solo bisogna stare attenti, anche magari bisogna buca che tutti dura. Lo so. Tu pensa che io stavo mettendo quel lineare bruciato, lo stavo vendendo 30 euro di ciuffo e ci ha fatto la roba. C'era anche un... Allora, io stavo guardando il prezzo del 747, 148 euro costa adesso. E che te ne pare? No, vado bellissimo, io 5 watt lì, perfetto, va troppo bene. Avanti, Pantalino. E invece il lineare non ne attacco assolutamente a chi non ha. Non è mai usato e non mi interessa. Scusa, poi baraglietti chi fa, mi già mi va, sai chi su chi va, già va, va giù su chi su e buco. E tutto non ne va bene, la gara di buchi va. Prova quello spezzone, Natalice, va bene. Come? A provare quello spezzone se va bene. Sì, non è Puglia, adesso qua qui ci sono fra. Un altro momento lo proviamo. Ma intanto non amplifica un cavolo. Ma infatti è un microfono normale, te lo dico io perché non c'è il processore. E infatti garantire la continuità produttiva, solo per quegli apparecchi là va bene, sicuramente Ibu mi sei qua sado e non ne ho più e adesso mi uso solo questo il baracchino. Non è mai fatto, non ne vale la candela, infatti cosa ne fai, va. Lui oramai è morta questa cosa, non ce n'è più per nessuno. Ma io mi devo procurare soltanto un piccolo rospetto e bu per controllare stazionati, nient'altro, il resto lascio tutto così. Ma infatti Torino, cioè cosa ne fai? Quando vai dei giornali a radio non ne tratti sempre una, cosa ne fai in tutti i radio? Ma poi c'è la legge e ce l'ha più tanto bene. A me mi si è passato tutti i seguiti. Un anno e mezzo fa è morta. Lì si è indagato. Oh, madre e figlio. Quello posso dire, queste baracchine stanno facendo adesso fanno cagare, non servono a niente, perché io ho guardato i circuiti stampati, fanno schifo, le piste non te le dico, non so. Adesso io ho aperto per voi dire, quel sommer capo 23 canali dell'89, le piste sono tutte stagnate, chi si fa di lavare i misti sotto i lati, i misti vini. Ma io giro questo baracchino avrà minimo 30 anni fra. Ed è un po' buono, ma fa niente, e va troppo bene. Lo credo, ma qui ci sono i migliori, cos'è? Che tappare che la nuova era che c'è là, quando si fa c'è i dirigenti. E come te lo superstar, chi va più io? Lo compare giù nuovo, cazzo, e non l'abbiamo potuto qui a puntare. A me mi serve la mascherina di questo qua, non riesce a cantarla, cazzo. C'è la batteria. La mascherina, il frontalino, vedi, questo baracchino, siccome c'è un piccolo buco al centro, che l'avevamo fatto non so perché, infatti me l'ha dato una cazzata, me l'ha venduto, 80 euro. Ma dirò che è bello quel baracchino, mettere una mascherina nuova, torna nuova di zecca questo baracchino. La scusi che di... c'è anche il coso che assomiglia a lui, non mi ricordo com'è, ma che c'è la sigla, se ne sono tanti, ma guardate Stefano una volta, tanti modelli che erano uguali, ma non li vede le mascherine, è un casino, eh. E anche il superstar mi sembra va bene. Mi stavo dicendo, non me ne ammetto. Ma cos'è la Fayette Typhoon? No, è la Fayette 2004 FM. Un attimo di bianco. Scappa. È diverso dal 3009. Sì. Io ci avevo tanti modelli, ho guardato e assomigliavano bene. Ma non te li vendo, ho capito, ti vedo il baracchino, ti vedo la mascherina. Mandami la foto su WhatsApp. Aspetta che la faccio e te la mando. Fammi vedere com'è. C'è l'857D cinese su Alibaba, costa 126 euro. quadro e banda, 104 d'uscita. Sto inviando, Franco, te l'ho mandato. Adesso va bene, dai. E ci ho visto, la stuffa a pelle. Ah, che sta troppo, lo manda la mascherina, va bene lo stesso, accettata. Ida, che sia roba. Oh, è tutta diversa questa, è bellino però, eh. Capo, quello che l'ho trovato, tanto io l'ho parlato, fra. E funziona tutto perfettamente bene. Ah, si manda a voce. Si andava, bello, bello, una bella rana, anche lo Twitter è bellino questo qua. Ecco. E niente, sono scritto la mascherina, tutte le cose non la c'ha. Ma non so faccia la mascherina, c'è un buco al centro lì. Non so perché non l'ho fatta. E infatti mi sa, prende poco poco l'FM e AM prende. È un casino. No, AMFM prende USB, no, LSB e ci vuole doppio, quel P2 là prende. Forse l'hanno messo un LED, non lo so cosa l'hanno messo, cosa l'hanno fatto. Qua c'era qualche LED. Vabbè, ma è vero, hanno rovinato la maschera, infatti per questo piccolo difetto me l'hanno dato a questo prezzo. Uno di Roma, e poi l'ho preso al volo. C'è un buco, ho capito cos'è, sicuramente c'era qualche LED. Ma si può trovare una maschera di questo, fra? C'era un casino a trovarla questa. Al marocchino è Antonello qualcuno. Oh, Pozzi, di hai? Mi devi mandare la fotografia. Qualche mascherina ce l'ho io, qualche baracchino. Capito? E solamente mandarmela. Mandi la foto e poi sì, vediamo. E io non c'è due, non vuoi telefono di gare, 371-162-3461 mi sembra che sto mi ricordo male. Comunque 371. Aspetta che te la mando. È una bella radio tu lì. Sui bande. Sui babà c'è l'857D 126 euro c'è. Bello, quadro in banda. So che mi piace 10 pizzi, cazzo. Solo l'avrei comprato a quel prezzo, avrei aspettato un mese a farmi arrivare dalla Cina, qui in Italia costa 5-600 euro l'apparecchio. A Torri Guarda siete arrivato? E è arrivato alle 7:04. Sì, io faccio Pomponio 2, l'ho aperto. Aspetta un attimo. C'è una maschera fulbiai, guarda, aspetta, forse va bene, aspetta un secondo. Come hai finito il volume, se lo vado a aprire il messaggio a te? No, già è bella voglia fare che vengare. Però quel buco sta dove abbiamo fatto. A meno che non c'era un pulsante, non è magari c'era un pulsante per metterci qualche cosa in più, no? No, te lo sto a dire, così me l'ha venduto e così scopata. E la mascherina volevo cambiare io, Antone. Già lo so, adesso guardo, un attimo la fuori, c'è diciamo, la mascherina è un attimo vecchio io. Aspetta che controllo un secondo. Ciao. E allora fra? Mi sono al computer, sto guardando la posta qua. Ma non è un cacchio, bolletti da stamattina sono in Camanoa perché c'è un rimborso di 160 euro. Su che cosa? Sull'acqua. È un rito quando lo scalano da 160 euro. E infatti l'ho messo a scalare io. Sì, perché loro diranno che gli altri, quelli sono figli di ragazza, che loro mettono a scalare e basta. Se tu paghi più non gliela fotti nulla, vuol dire che abbassa il prezzo, ma è sbagliato così. Se non potete più, dovete tornare di là. Vabbè, è cara, mi vedo a me ne ha fatti giù. Beh, che quello è vero. Vabbè, a me mi sta abbonando, invece mi ha messo condominio, 30 euro al mese di acqua, e mi ha messo la voce del contratto condominio, e si è avviato oggi. Tu mi sei voluto 30 euro, non consumo 30 euro al mese di acqua, così è. E comincia a aprire, ma la bassa all'acqua, la macchina, la fia tutto, e il porta sai. E infatti consumo di più, come la porta sai, beh, così fa. Lontano da me, porco, il portatore. Stavo dicendo, ma poi per quel condizionatore cosa avevi deciso di fare con quell'altro che c'è all'altra parte? Allora lo so, mi ha messo al contratto un condizionatore, non due, capito? Qui automaticamente ha ascoltato il cognato, ma io ho fatto un bello scherzetto. se non mi ha funzionata. Se vuoi fammi al suo col tetto, ah, non mi ha avvisato. Ma che ciò funziona il condizionatore, no? Ed è quello che c'è in cucina. Scappa! E quello è da caricare bu. Lo so, fra, però giustamente chi tu sei un fastidio, eh? Aspetta, aspetta, quando arriva la torta c'è la ciliegina sulla torta, cosa liscia tu che condizionato le zapacchi di aiuto, eh? Ciò di non avere detto di andare a metterlo là, lo metto detto io. Vabbè, ma c'è troppo lavoro, capito? Chi tu, lo pallone, lo bocchetti di là. C'è me l'ha immaginata, dirà così. E lì ha detto, l'ha notato. Adesso abbiamo un pizzo da spaccare, dai, non c'è soldi, c'è mancomante, io ritiri. E se di arbu, i clienti mi devono arrivare, mi sono con un ritmo sciacara. E ci credi che avete quel piccolo pallino? Dammi, Rivina, dammi. Allora, la macchina che ho io, sì, per provato, è grigia ed è diversa. È di un CTE SSB 350, non so se te lo ricordi. È diversa, se no ti avevo dato questa, è grigia di colore, ma è diversa un bel. Quindi non corrispondono neanche i tastini in un telefono pulito. No, infatti, quello tu era 6, per i pulsanti questo è 5, 2, 4, 5, poi le manopole ce ne ha 1, 2, 3, 4 per le manopole, poi c'è, da parte c'è l'attacco del microfono frontale, poi c'è lo smith da una parte e le cose che cade dall'altra. C'è il led della parte di ricezione e il buco del led della parte di trasmissione, e poi c'è sotto quello al led di trasmissione dove c'è il display, in pratica c'è la manopola dei canali. No, io attacco il microfono laterale a sinistra. E infatti l'ho visto, è diverso questo, ma comunque non tengo da farlo. Nel caso magari che ti capita un barattino uguale. Pulisco bene e così te lo conservi. Già ci sono quei barattini di modello. Nel controllo magari questo lo trovate in terrazzo. Nel controllo in quella scatola che ho sotto al tavolo, se c'è qualche 200 canali vecchio con la mascherina, adesso vediamo un po'. Se sei fortunato. Ora se dice di tracciare la luce devo entrare in panica, porca miseria. Non sarà granché sto pochetto, ma mi piace, ma chi dice? E lo voglio vedere perfetto, porca miseria. E io vabbè, se mi capita già lo sai, gli ha tirato il culo, come ho fatto con il Stato Mila che ti ho dato la mascherina del Connex, non c'è problema, tanto non ne facevo niente. Andare. E poi di un secondo che mi lavorerà e ce lo vale tutte le. Sì. Andà bene, bu. E vabbè. Io addirittura sto paracchionato un microfono e un Midland, bellino vino. Perché dice, paracchino di cielo, non ce l'ho, ti do questo qua. E ma sto Midland, ma già è buono lo stesso, eh. E io poi ho fatto la conosciuta. E va, poi in quel buco ci metti un LED, dico io, LED una. Dove l'attacco lens, così appoggiato e basta. Ma quel buco lì come ti è fatto a trappolo? Io mi sembra che sembra un buco fatto a trappolo quello. Sì, mi è fatto a trappolo, trovo perfetto. Secondo me c'era qualche LED, magari ne butto un LED, non si sa fa cosa. O anche un pulsantino, forse da un altro canale, E forse per qualche pulsante. Se invece non buco se lo fate di fronte, la mazza di nevaria, Secondo me rubinano le radio questa persona, ragazzi, allucinante, Si faccia scritta con un piccolo difetto, lo so questo prezzo, ma comunque 80 euro si può pigliare, dai, funziona tutto perfettamente bene. Poi c'è 271 canale pure, dai. Ah, bello, una bella radietta, per quel prezzo lì si può prendere, dai. Occhi chiusi. Niente, non riesce a gattarlo. Stefano ha tormenti queste radio più o meno uguali, che sono anche uguali, diciamo, come mascherina, ma sono tutti baracchini. Ma le vendono, ma ve lo comprano un baracchino per aprire la mascherina. Naturalmente con un baracchino e tengo buonanotte. Non le compare, c'è un altro. Oh! Allora non andava in liscia, te ne dico. Ma tu non c'hai neanche il 23, venduto te la vivi. Ce l'ho qua il 23. quello cos'era? AMFM? No, solo AM, e si chiama Electronic 1800. Ah, io come dicevo il Vato FM, quello invece no. No. Allora, A1 ci ho rimarcato bene, mio fra. Li stavo vendendo, come si chiama, quello che è in stazione base, che poi ho ritornato a Manuele. 120 euro. Poi mi ha dato i soldi, poi mi fa, ah, ma FM non ce l'ha dopo due giorni. E io sto preparando il pacco, mi fa, ah, no, io ho tutto da canale mio. Non lo voglio allora, no, cerca di venderlo, allora mettono così. Dopo due, tre giorni dopo mi chiama e mi fa, ah, scopo, vabbè, mandalo lo stesso, e no, cazzo, l'ho dato l'amico mio adesso, e lo sto andando via, pazienza, e lo sta vedendo lui, cos'è questa cosa, che dore intorno, lo vedo con un altro baracchino, ho detto, guarda, io sono bello, un ventre canale, avevo un altro ventre canale, dice, andate, ve lo più, e poi rimandami quello, io ho mandato quello, contento, magari di Brasile, perché di solito ricercano quelle stazioni di base, perché sono a 220, capito? Non c'è bisogno di alimentatore, invece i ricchi, se non va l'alimentatore a 12 non vanno, tutto lì. Non so, infatti gli ho mandato un alimentatore di cinici. Come funziona? Gliel'ho spiegato, sì, perfetto, bellissimo, tieni te lo conto, io ci ho guadagnato sempre. Io c'ho la stufa qua, quello grande, l'alimentatore, l'abbiamo modificato, questo dà praticamente 35 ampere adesso. Ma io c'ho fra quello che tu manda a me, mi hai regalato, quello 12 ampere, della ZC. È un po' buono, va bene. Aspetta, lì se andava sì, quello che sa che è un 15 ampere. No, 12. Cazzo, ma è pesantemi. Cazzo, ho preso un trologa. Che c'ha un bel lettore di raffreddamento in alluminio dietro. Quelli erano i migliori toni di alimentatori, questi qua. Altri mi diceva che gli alimentatori lo prendeva. L'ho venduto a Trento. No, qua si vede che è vero massiccio. E io sto facendo funzionare questo qua che mi ha dato la non si cocca, Non regge bene, non si ampera, voglia. Non c'è qualità, no. Io ne ho un'altra addirittura da 15 ampere, di quelli pesanti. Beh, a me già mi piacciono questi qua grossi, pesanti, Io c'ho il mobile fatto apposta per mettere tutto l'altro. Poi ne ho un altro da l'altro da 50 ampere. Sì, capito, da 50 mi sono meglio. Poi già dire di 9 kg quell'altro, quello da 40-50 ampere. Oh, anche quello che era tuo, che tu l'hai dato a Gianni, c'era pulato a me, io pulato a te, anche quello pesa a me. Stata lì c'è un treno alimentatore. Sì, quello è buono, è bello, grazie. Ma comunque, che poi è nata una storia, ma in società, ma io dai, no, perché sta. Quello l'ho tutto rivestito, se lo vedi è uscito un gioiello, nuovo. Ma l'hai rivestito con la pellicola adesiva? Scappa di positivo, sì, con quella pellicola tipo carbonio, ma sai che bello è uscito. E così lo sai a Berliciano, si graffia nel nuda. Beh, tu c'hai da pentire i negozi. No, a me, io posso prima Berliciano, forse il divigliese, un altro poi Berliccio. Vabbè, non appetto anche le cose adesive, mi si rimuscichi un casino. Lo so, io mi sono capintato. Una sera mi sono buttato laggiù di montate, ricuvacchi, piano piano era giugato. Ma la fa una cazzata con la pellicola, 3,50 euro. Mi sono fatto questo e quello che c'era in macchina, quello modificato. Il mazzo di giamma. L'ala 48, ma l'ho vecchio modificato, non avevo, quello che mi aveva regalato quel tipo vicino a casa, capito? E andava. Ecco. Aspetta che mi è arrivato un messaggio, dunque il presidente deve essere contento e guarita da almeno un mese senza alcuna eccezione, continua a medicarla e se si fa non ce la faccia più. Se guarisce la prossima settimana ci facciamo una visita di controllo. Andrà bene, bene meda. Andare sì. E così e boh. Ma io avevo pure uno di quelli dei cinesi, avevo comprato uno qui a 30 ampere, ma non mi piacciono, io, per carità, sono, direi che potevano arrivare gli alimentatori, non c'è niente. Ma io sono me lo so pacca di dai, un più simile a nulla. Sì, va. Bidoncini, so, capito. E allora. Ma. Anda bene meta. Ma, buon pugno. Mi sparito. E si chiede ancora la maschera per me. No, sono qua, sono qua, mi preoccupare. Sei famiglia però. Io fa poco. Che tu una cassa di birra. E allora. Stavo leggendo, cazzo, che c'è un casino per gli che hanno compilato, cazzo, sono tutti bloccati, insomma. Gli capi li hanno compilati tutti male, cazzo, quelli lì nel 2024, fuori in campo, Guarda, ti hanno mandato l'SMS, di quelle carte, dice che qualcuno le sta già ricevendo. Oh, io ancora ho ricevuto un SMS con un tubo. L'ho fatto il 7 di dicembre, come si chiama la domanda, meno male, e ho finito mi sembra il 10, una cosa del genere. Sì, comunque stanno già mandandoti le carte, dovrebbero mandarle adesso, la prossima settimana, e poi ti daranno i pagamenti entro il 26, dal 20, dal 27 al 31, 26-27 dovrebbero essere già in... sulla carta. Sì, so che mandano le sms il giorno dal 22 al 24, a quanto so io. Quindi adesso speriamo bene, se tutto è andato in porto dovrebbe arrivare. Almeno sono tranquillo, cazzo, mamma mia, cazzo, no, due mesi senza soldi mica è brutto, mica. Ma c'è la gazzetta ufficiale che c'è scritto lì, capito? Tu devi andare, non devi andare a vedere i gazzati. Vai, gazzetta ufficiale e vedi un po', e c'è scritto lì. Poi adesso vediamo se arriva l'SMS dal 22 al 24 di questo mese nel nostro telefonino. Perché gli avevo dato il 340, avevo 210, quindi lì mi è arrivato gli sms dell'Ips, mi sono arrivati tutti lì, capito? Speriamo che me lo mandi, appena me lo mandano immediatamente mi reco alle poste a farmi la carta, poi quando me la carico se vedi se vedi se mi pronte che la carta ce la bevi a casa. Mi prendi tu lì? Hai entrato nel sito cercando il coso mio, però non ci vedendo. Eccolo qua. Eccolo qua, uguale identico. Sì. Beh, me lo scoprire un altro fatto con la tua mascherina, tanto male che si mette qui, insomma. Ma il computer non vedrai tu lì. Cosa? Ho detto, ma il computer non ce l'hai. Sì, che ce l'ho. Ma allora entri col computer. Ma è devo tutto attaccare, un casino invece col telefonino fai più veloce. Ah, in definitiva fai più veloce, sì. Vabbè, il computer è più comodo, però. Vabbè, facci quella cosa veloce, la fai così. Vedi, meno che non ti riporta la mascherina, manco belle palle, cazzo. Qua c'è tutto il baracchino. Però niente, non ti dici che lo so vendente, capito? Ma a me tutto il baracchino non mi interessa, però non me ne fotti nulla. Io voglio la mascherina, ho messo un frontalino lì, non funziona. Mascherina ne manco, è un certo buonino. Deve mettere ricambi di quel modello lì e magari la truffi. E visto che Arnold Schwarzenegger l'hanno arrestato in aeroporto, l'ha fatto una multa di 35.000 euro perché aveva un orologio che lui l'aveva preso da mettere all'asta. Ci sono cazzo sono cani, però 35.000 euro di multa, pezzi di merda, raga. Potrebbe dare un casino di soldi quella cosa. No, vabbè. E tu, Fra, conosciuto avevi a Giovanni Modigliani? Fra. Stavo sapendo la temperatura della stufa a pelle, che ce l'avevo a 20 e l'ho portata a 24. Sì, capita. Ho detto, conosciuto l'hai tu a Giovanni Modigliani? Non ho capito. Se l'avevi conosciuto a Giovanni Modigliani, con il duccio. Ah, sì. E quello che faceva le cornici. Bravo, mia grazie di lenta. Sai dove è adesso? No. Esattamente, come si chiama? Cacciaghe. Cacciaghe. Non ti cassi, no, Cacciaghe. Insomma, vedi che sei santo. Ah, e cosa credi? Abita lì, aveva un'edicola, poi ha sarato tutto. Un figlio rimuso, e pare. Con il ricorso, sì, sì, è giù preso, mi sembra di fare le cornici dei quadri. E era via Grattarelli dove c'era, che cazzo c'era, lì la Moccadora. Ah, si chiama Tergo, dove si trova attualmente adesso, e ha le case popolari. Sì, sì. Sì, la moglie di Angela. Sì, già me lo ricordo, era CB anche. Sì, allora lui abitava dolce Marras, quello che vende edilizia, che adesso ci sono vende ceramica, eccetera, eccetera, la strada non era all'inizio. Ah, ecco. Ci frequentavamo di tanto, capito? Tranquillo in gamba. La maglia era in gamba, comunque, una persona era in gamba, una persona. Eppure è cosa, mi raggio, quando ti cosenta, te l'ha me, conosciuto la Bibi. Per le musiche che faccia? Sì. Ma che fine ha fatto Isso? Mi dico che non ha giusto una via, Isso, un cazzo. Ma è un posto, eh? Sì, mi pare di sì. Una via è giunto a casa che ti cosenta, con un altro. Cazzo, non è che cosa mi abbia detto. Adesso vengo a casa tua, e vieni, fa la testa come la da giorno, che ha giusto una giusta, cazzo. Se si è fatto due dico con Bingo, si è cantato, era con un commento, al professore si è cantato, beh, aiuto, esce pure, e poi viene uscito, mi ha dato giochita, e così che non mi ha dato, capo. Infatti quando l'ha visto, dice, le cantine erano i cudelli, ti dico una rasura, io. Ti ricordi di cosa? Poi c'era Gian Piero Zingaro, la Volanima, che è morto. Da lui della guida, Luigi Ciars, mi sa che è morto anche lui. Ma niente, morta. Io mi ricordo ancora che mi davi il tempio, Uccio Melonizzotto, che poi non so più che fine ha fatto. E poi l'altro si azzucca il cognome, mi pare. Di la vite, quello è Muccio Matessi. E non i cibi sono morti. Un bel. Dinami te pure. Scappa. Da voi la guida. E c'è un bel. Tu hai conosciuto anche a Valeria. Valeria, ricordami qualcosa Valeria. Piazza Colonna Mariani, Valeria Tosca. Scappa l'amica del padre Francesco, a voi l'ho conosciuta. Padre Francesco l'ho visto, quando 2 anni fa, mi pare. A Santo Domando, grazie, mi è stato dato. Anche lo vedo spesso ogni tanto. Io lavoravo assieme a Coso, giù al Policlinico Sassarese, lavoravo lì. Perché facevo i lavori lì, la danza, la trovavo sempre nel reparto. No, non era Policlinico Sassarese, fra. Era esattamente in Viale San Pietro. Ah, sì, Viale San Pietro, vedi, mi stavo dimenticando. E invece a cosa era al Policlinico Sassarese? Io a Tosca l'ho conosciuta e... Sì, perché molto era che in Tosca. Cara, c'aveva una bella stazione in Valeria, Ti ricordi che bella radio? Via? Sì, ma detto, è vivo o è morta? No, già si trova, e adesso ci avrà la sua età, non lo so. Abita a Valì, Piazza Colonna Mariani, dove c'è quel bar, sopra quel bar che c'è sulla sinistra. Scappa, lo so dove abitava. Non so se abita ancora lì, Molto lì, cosa vuoi ti dica? Io lo vedo sempre a padre Francesco, già è vivo. Vecchio è, ma già è vivo. Ma non penso sarà morta, perché quando l'ho conosciuta io, diciamo io era appena entrata in frequenza, ha fatto un colpo 74, quindi lì era già figlia. È in gamba comunque, è una bella donna. Poi, Gavira, Luisito, conosciuto in Viale Sicilia. E coso, Italo Lai, là, ancora, che travagliava a San Camillo, lui era conduttore caldero a vapore. Scappa, Italo, sì, poi c'era coso, Aquila della Notte. Scappa. Charlie Brown, venire, quell'altro che era malato e fratello, nulla così, non mi ricordo come si chiama. Venire una marea. Un bel. Ma allora c'era più, diciamo che c'era più attività di adesso, ma non venuta tu. Prima mi ricordo di si acciappavano tutti quanti, si andavamo a Ruggirco, la Coso, da Mario, il bracconiere, tutti vivi di un sabato, che è. E allora il baracchino si comprava da Grassi, via Principessa Maria. Poi ho conosciuto Scandola Sole, che abitava a Corso Vittorio Emanuele giù, dove c'è Madu F, dove abitava sopra, guardia giurata. Veramente tanto bussava, io il primo baracchino l'avevo comprato, era il radio, da Goso, da Rubagalline, che subiva dai Viali Italia, dai Sanimari. Ma non mi dici dove ha lavorato Bobboni, lo sai? Ah, da quell'animale, che c'è Bobboni, imbruglioni, che... Io poi l'avevo comprato un baracchino con tanto di tarne più tre da tavolo, ma di rusa originale, però ci ho potuto io, 60.000 bracchi. Sì, costavano i gusci. Allora c'erano tre quel bar, poi c'era quello che era in... vicino all'ospedale adesso, non mi ricordo che quando fa baracchino, c'era il Toccai, aveva un casino di marche, cioè fa CTE, di tutto. Ehi, quello lì è quello che mi faceva sento da poco fa, quello avevo comprato il baracchi Simpson io, il faccio 2030, ehi. Andava poco di radio quello lì, pure Fusaro ce li aveva baracchini all'epoca, adesso qualcuno già l'ho visto che ne ha, ma... la roba mondezza. Gira un bel, tu pensa che uno vai a comprare un coso, una la 48, non lo paghi non meno di 190 euro, capito? E dopo non si fa nulla, perché sono i modelli nuovi e c'hanno il circuito stampato che fa cagare. Io ripeto, ho trovato persone in gamba, grazie a Dio, poi questo era di Roma, ho contattato con l'amico mio romano che è Simone e mi ha detto vai tranquillo, lo conosco. È venuto un apparato, prendilo a occhi chiusi, e infatti l'ho comprato, me l'ha mandato, in due giorni ce l'avevo già qua. Giurati. Antonello, riprendi. Sì, stavo parlando su qualche questo, c'è un FM500S, due VHF e una Lincoln, cioè, qua a Sassari, stavo vendendo. L'avevo messo poco fa, l'avevo messo. 500S e Vita G, un Intec. Sì, ci sono due VHF, un ricevitore VHF a Lincoln, eccetera, eccetera. Ma l'ho visto adesso, l'ho visto, su qualche questo. 60 euro sta vendendo in tutta. Ma allora te ne vai, tutta mondezza, fa carizzare. No, vabbè, quello che lo so. Però su Alibaba c'è l'otto 57D 126 dollari, cioè, americani, dalla Cina. Già lo sai quanto viene con l'apparecchio, sì, quando in banda. Lo facevo io una volta. 126 dollari si può anche prendere, il problema è che viene 10 pezzi. Sì, quadribando, ho capito quale, sì, te lo conosco. Comunque io c'ho sempre il Superstar 5501, che su Intro ho trovato 800 e passa a Milanina costava, fatelo un conto, e ce l'ho io. Costava un cagione di sud, di Nice a Faricchi, lui. E c'erano apparecchi, c'era anche il coso che era bello, la Fayette, adesso non mi ricordo il modello, quello che c'era anche la banda laterali, che c'era lo stesso colore dello Smith di quello che c'è in tutto lì. C'è la tastiera, il numero da 1 a 9 poi 0, poi c'ha 4 pulsantini, ingresso microfono, che microfono non ne ho, e il volume, la squelce, eccetera, eccetera. Guarda, l'antenna funziona perché io accendo già tutto in verde, il frequenzimetro, a me non è comunque. Ah, io dico la verità, io non prendo più nulla di queste cose, boh, basta, cosa me ne posso, bah. Fatto una chiacchierata. No, io ho fatto scambi eccetera eccetera, non è che ho pagato nulla, mio ho scambiato roba, non mi ricordo più neanche, ce l'ho da parecchio, ce l'ho e funziona, però se mi capita di scambiarlo lo scambio, non me la fotti nulla, perché non fermo e non adoperarlo, uno che se ne intende la può adoperare. Vedi, la stazione base è bella perché lavora a 220, capito? Attacca le pinne e ti rubo in TV, invece di da maniera devi buttare alimentatore, virus, un casino. Lo so, purtroppo è così fa. Io avevo visto il coso, ma aspetta, un 23 canali, bella valvolare era. E io non mi ricordo che marca era, però. Una marca strana era. 23 canali valvolare, bello, ragazzi, 180 euro lo stavo vendendo. E tanti canali hai detto? 23 canali. Sì, ma 23 canali. Io ho avuto anche il valvolare, il GX5000, soldi non gli ne ha dato. Io ci sono andato con 23 canali, ma feo con i droni, il microfono aveva un pezzo di molletta e ho fatto scambio. Piero non le vuoi dire la vita, è incazzato dietro. Poi c'era Bruno l'idraulico, anche Redai, tutto la porto via, anche il lineare grosso la porto via, per un cambio di un computer di Vicky 20. Ma ha detto, finisce le puntate, viene qua, Taghino. Allucinante che è. E poi ho venduto il tutto a Toria la Verde, la buon'anima. Ah, ecco. E chissà che fine hanno fatto quella radio, sicuramente gli ha venduto il figlio. Non lo so. Il tutto l'ha dato 350.000 lire. L'ha preso al volo, è venuto a casa, amico. No, è quanto vuoi. L'ha mettere 50 uscenti. Me la date via, porta via tutto. Io Vicky 20 l'avevo pagato, mi sembra 30.000 lire. L'avevo venduto il 440 MC60, tutta la linea praticamente del 440. E poi mi ha violato allora all'epoca 600.000 franchi. Dunque, fate scherzi, comunque giorni fa che c'era quel vento forte forte, va bene, ci hanno detto fra, sotto la veranda, il plastica, era molto, ma non c'era niente, mi era già caduto qualche volta col vento forte e si era spaccato gli sportigli, l'ho aggiustato la casa di cane, un po' di quel nastro bel pacco, da poco mi ha dato il vento e non c'ero, sono tornato e mi pizzi per terra, l'ho tutto impacchettato, mi è saluto per la plastica, buonanotte, tanto cosa ne fai? Nulla, non pensa, la lampada. Infatti, l'ho fatto a tanti pezzi piccoli, messo il nastro per pacchi, me l'ho sigillato, buh, avanziamo tutto. Per carità, quando dice il giumento, poi no, che io, l'antenna non si è muovita con l'itirante che fa. Aggiungo che mai l'itirante, ma sono ben messi. Poi addirittura uno c'è il triangolo l'ho tirato a zero. Questo, ho messo un bel picchetto fuori e il tirante che prende sia il palo dell'antenna, scende e poi ritorna indietro, un triangolo, cazzo di trovate, lo salto e trovo. Cazzo, un barro, l'antenna si muoveva poco a poco, ma un barro, manco cici. Cos'era? Di Gingom. Era perfetto comunque. Ma non ci vedi l'antenna, non ha giubito che mi pare sia il pelo, il palo adesso è 6 metri. Io volevo portarlo a 10 metri. Ho piazzato quel tubo famoso, quello per i scopi, se ti ricordi. Ma no, io voglio almeno due pari o anche quelli innocenti, sì, 12. Anche quelli mi vanno bene, cazzo mi pensano bene a Giannino, casino, A meno che quello perna, buttato in terra, non è che chi sa me. No, quel palo che avevo piazzato io, ti ricordi quello sul tetto, che era un telescopico? Da un pollice. Quelli ci vanno bene. No, un pollice e mezzo, era due pollici quel tubo. Quello che ci vuole abbiamo piazzato da me, ti ricordi? E quello allungò un bel, allungo, io non l'ho allungato tutto. Vabbè, io ho visto che su Facebook c'era questa vendendo due tralicci, due limiti da 3 metri in uno, o se tu ero, no, se non 6 metri in uno te l'avrei comprata un chips, ma io 6 metri non ne posso buttare, sono già il palo 6 metri. Cosa te ne fai? In effetti ma te ne fai un palo, cosa ne fai? E cappa, un tralicci come dico io posso mettere due tre antenne, pur non me ne fotti nulla, ma 6 metri non ne posso buttare. Ma infatti tu lì, comunque quell'antenna che c'è tu va bene. Io ho fatto male, cazzo, a tagliarla con l'antenna. Oh, cazzo, sono buone, fra. Ma io so che ci ho pagato 60 euro, no. Io me la tengo e poi tutte le giunture le ho messo il nastro localizzate, perfetto, non entra neanche né niente, è buona. Ma io l'avevo presa, ti ricordi che me l'aveva fatta quel tipo, cioè fatto il filo e l'antenna? Avendo per comprare 30 euro di tutto, guarda. Come si chiamava? Master, quel tipo? Master, sì. Anche il cavo ce l'ha dato, via. Quello grigio. Sì. Quelle antenne lì andavano bene, quelle antenne. Funzionavano bene quelle antenne. Io purtroppo l'ho buttata giù per montare questa, perché avevo detto che era piena d'acqua, quindi cosa me ne fa dire? Non me ne fa dire uno nulla. Sì, era vero. No, io ma guarda, la davo per 50 minuti, quello che non è ancora che come antenna, ma ho visto che io c'ho un bel po' di tempo, fra, e posso dire, a me va troppo bene sta antenna. Infatti va bene, e questa sentire che tutto sasso già mi va bene, dai. Vabbè, da che c'è te la giubbiazzata, l'ho sta rinforzata, il petto non gli ha fatto niente, e poi stazionaria non ha nulla, proprio zero di stazionaria, insomma. Meglio così. La giubbiazzata l'ha tirato con me perché ho da poco, per carità. Poi non sono io ventoso, tu lo stesso siamo aperto, chi inventa di meglio me. Eh beh, dove sono io ne prende più di dove sei tu, perché sono da una bella alta, capisci? E qua il vento, cazzo, batte forte. Sì, ma anche io che sei già in tira, io c'ho questo canalone qua che il vento, lo vento è forte, infatti i tiranti non mi si vedono rinforzati, ho messo la sagola, infatti sto bene. Non so se ho 5 tiranti ciò, ma è troppo di russo qua. Sì, ma tu l'hai sollevata ancora di quattro quell'antenna? Mi sa che l'ho sollevata altri 2 metri, adesso sono 6 metri perfetti, più l'antenna. Infatti il segnale è aumentato un bel, qua c'è 9,25. Ma lo puoi sollevare 12 metri, fra. Quindi vedi che c'era, l'unica cosa arriva, lo sai cosa ci vorrebbe, il cavo. Vabbè, perché tu c'hai quel cavo, quale cavo c'hai, quello grigio? Sì, ma c'ho il cavo a 27 metri, l'ho preso da Antonello, l'RG 213. Ah, il 213, solo che è troppo grosso sul virus, ma lo sai cos'è, è un bel cavo. Solo se devi fare delle piegature, ma tu hai spalle quel cavo. No, ma io Pietro lo devo fare, perché... quando mi trovo sto qua che dico io, sono gli Amphenol e metto quelli là. E quanti metri ne hai di quello? 27 metri. 30? Eh? 30 metri. 27. Esatto, 27 metri, non bene. E quanto ce ne vuole da te? Ehi! Qua ce ne vorrà un 20 metri, 21 metri, boh. No, non ci vogliono 20 metri da te, di meno. No, di che c'ho il palo fuori io adesso. E sono 3 metri più distante dove era prima, fra. Forse 22 metri o 23, comunque 27 mi sembra troppo bene. Sì, sì, in definitiva sì. Andò bene. Sì, sì, sì. Infatti non l'ho messo, l'ho acceso giù l'antenna, ho aumentato il palo, però il cavo l'ho lasciato quello grigio. No, non mi conviene ancora, voglio che mi spago come dico io, in 2 pezzi e boh, questo in 3 pezzi e me. Infatti, non è mi fida sempre di tanto, ci tu mi sa che compare giù l'affio di Cardenna e vate con di scorta. La lì che faccio io che mi piace l'assa. Ma infatti, ti conviene sfruttarla ancora quella. E lì ci avrei piazzato una bella antenna su. Capo. Se trovo una bella mazza va uno, che è difficile. Oppure mi prendo, come si chiamava, Lazzarone, no, la, non me la metto in più chità, che assomiglia tipo la mantua. Ma la mantua 1 non ce la vivi. Che cosa? La 5 ce la vivi. Scappa. E te l'hai buttata? No, se tu hai passato come si viene reale, fa già me l'hai data mezzo primata, chi se me l'hai data? Ai, cazzo, lui. Vabbè. Bisogna fare solo la piastra da capo, e chi te la faccio? Una parabola, Una piastra c'è una cosa, una via 27L pure va bene, oppure dobbiamo una via master. Un altro tipo di antenna. No, io sono innamorato con una persona che me l'ha promessa, me la regala, mi ha detto, la Mantova 1. Però sta sempre lavorando a cavolino, non riesco mai a trovare l'appiglio, la dico, è chiamato a casa di Romano, un telefono dice, io me la posso smontare, me la smonto. Dice, no, te la regalo, me la posso smontare. Vediamo. Se riesci a mirare chissà, svogliamo dentro un altro 12 metri. Vabbè, certo. Allora sì che usciamo forte, che ne sono fatto? 8 meno 20, in cazzo, no. Dai, che dobbiamo preparare qualcosa, Franco. Ok, già, ci sentiamo domenica, limite, se sei libero. Ok, o domani sera, per domenica, non lo so. Se no, un altro giorno, perché lunedì sono incasinato, la verità. Un bel. Devo andare con Antonino, che si è applicato la macchina, e devo fare un po' di commissione, capito, sono incasinato. Ok, frata, ci sentiamo, ciao, Pomponio, sei ancora all'ascolto, eventuali orecchie e porco. Sì. dai, anche io chiudo, sotto tutti, per me QRT, ciao una chiara Sarino che è passato in QRT, sicuramente, ciao Antonello, ciao, e penso alla scultura che ci sono state a fare. Mi passo QRT perché stavo facendo dei lavori col computer, vai, sto facendo alcune progetti, alcuni aggiornamenti. Ci sentiamo, Tori, ciao. Ok, d'accordo, saluto a Garuccia, ciao Franco, ciao Antonino, da un giro oppure eventuali ascoltori. Ciao, ciao, guarda da quella parte mia. Ciao, ciao. Ciao Torino, ciao Franco, ciao Natalia, ciao a tutti. Quello che sì, per me è troppo. Ovviamente per piacere, scendiamo al limite dopo se riprendo. Ok, ciao. Sì, Antonio, poi se trovi quell'affare che ti ho detto, il numero mio ce l'hai, ok? Sì, io già l'ho memorizzato il numero di WhatsApp. Vai a tirare quando lo, in quella cassetta dove c'è tutti i barattini, se c'è la mascherina, qualche mascherina che c'è tutti i canali, se è uguale a quella hai fatto 13, se fu trovato te la do subito. Ok, te ne grazie, d'accordo, grazie. Ok, ciao, te la chiudo, ciao ciao. Ehi, ciao ciao.